Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia della storia. Carlo Rubbia e Doriziano, due figli, scienziato dell'anno nel 1983, premio Nobel per la fisica nell'84. All'apparenza è pacioso, è pacifico, quasi pacioso, alto, massiccio, occhi azzurri, amante della tavola e del buon vino. Di lui dicono che sul lavoro è tutto determinazione e grinta, curiosità insaziabile e decisione. Il padre, ingegnere telefonico, e la madre maestra lo volevano ingegnere. I professori lo vedevano letterato o avvocato. Invece lui sceglie fisica e va a studiare a Pisa, dove fa il concorso, la prima volta lo fallisce e poi entra per il rotto della cuffia. Si laurea nel 57 con un lavoro sui raggi cosmici e ricerche in alta quota sul Monte Rosa. Lo chiamano il Cruise della scienza, uno scienziato a testata multipla. È a suo agio tra le macchine più complesse del mondo e, ha detto scherzando, che cerca un altro Nobel. Per capire con che cosa gioca basta pensare che un atomo è grande un decimiliardesimo di centimetro, il nucleo 10.000 volte più piccolo, la particella W e Z0 ancora 10.000 volte meno, e sono i suoi compagni di gioco. Dicono che parla sempre chiaro, a costo di farsi qualche nemico. Sentiamolo, professor Rubbia. Qual è l'ultimo nemico che si è fatto per aver parlato chiaro? Io vorrei qualificare questo punto. L'inimicizia nella scienza non è l'inimicizia vera, è una cosa cavalleresca come ai tempi dei cavalieri della tavola rotonda. Insomma, l'inimicizia rappresenta un contrasto di opinioni. E miracolosamente i miei nemici, tra virgolette, si sembrano dissipati. Insomma, lei parla chiaro. Mi sembra di avere solo amici e questo mi preoccupa. Insomma, lei parla chiaro ma è anche molto diplomatico. Diciamo, che cosa vuole? Ci vuole tutto arrivare a certe cose. Senta, professore, a proposito di parlare chiaro, però, sì. Barton Richter, anche lui premio Nobel della fisica, ha detto: la macchina di Rubbia è poco potente e poco pulita. I risultati sono incompleti e disturbati da un'enorme confusione. Beh, mi pare che sia un nemico. Cosa sì, no, direi che è un cattivo perdente. È un cattivo perdente. Credo che quest'uomo si è reso conto che quello che stiamo facendo noi è importante. Il fatto che ne parli, il fatto che se ne preoccupa, per noi è un grandissimo complimento. Professore, ma è normale un'aggressività così spinta tra scienziati? E fa parte del gioco, fa parte dello stile, fa parte dell'aspetto spettacolo. Ma quante sono le scuole in lotta fra loro? Ma c'è bisogno di un incentivo per fare le cose. Come, la scienza, come nello sport, bisogna. Ma le scuole vincere. Principali contrapposte brevemente quali sono? Ma sono i grandi blocchi, sono essenzialmente l'America e gli Stati, la Russia, e fondamentalmente grazie all'Europa, anche l'Europa. L'Europa esiste come Europa culturale. Professore, comunque, critiche a parte, lei è premio Nobel. Che cosa è cambiato nella sua vita? Io spero nulla perché mi rendo conto che essere premio Nobel è una responsabilità gravissima, è una responsabilità che impedisce in un certo senso una certa libertà a cui tengo moltissimo, quindi io spero di poter... E qual è il vincolo più grosso che ha trovato? È l'essere uomo pubblico, dover dire soltanto cose giuste e cose importanti. Io voglio conservare il diritto di poter sbagliare. Professore, ma lei se lo aspettava questo Nobel o è piovuto un po' dal cielo? Io devo essere molto onesto, le posso dire che il lavoro che avevamo fatto era sufficientemente importante, sufficientemente esplosivo per giudicare, per meritare un giorno o l'altro una risposta del genere di cui lei... Quindi se l'aspettava, insomma. Era una questione di tempi, e quello che mi ha sorpreso è il fatto che è avvenuto così presto. Lei deve sapere che il regolamento del premio è tale che non potevano darmelo prima, me l'hanno dato la prima occasione, e questo che mi ha reso estremamente felice in un certo senso. Professore, lo ha dedicato a qualcuno, a parte naturalmente ai suoi collaboratori? Guardi, è giusto, no, guardi, questo premio è molto importante perché rappresenta soprattutto il riconoscimento a un'idea diversa di fare la scienza, che è quello di una scienza internazionale, in cui persone di vari paesi possono cooperare in maniera libera, aperta, allo scopo di arrivare a un risultato scientifico. Ecco, ma allora le faccio una domanda più frivola. Si dice sempre che dietro un uomo c'è una donna. Ecco, nel suo caso, dietro i successi di un uomo, nel suo caso è anche così oppure no? È sempre vero. Credo che non essere in grado di contraddire questa sua massima. Lei, sempre però cercando di parlare chiaro, ha detto che il suo scopo è quello di spiegare l'universo in termini semplici, con poche particelle e poche forze fondamentali. Ecco, in due parole cosa vuol dire esattamente? Mi scusi, questo non è lo scopo mio, è lo scopo di tutta la scienza. Naturalmente, ma voglio dire, volevo capire in due parole. È quello di ridurre la complessità della natura in una serie di equazioni, di regole semplici, che ci permettano di comprenderla e anche di predirla. Se lei può scrivere delle equazioni, per esempio la meccanica, l'equazione della meccanica ci permette di calcolare un ponte prima che il ponte sia costruito, ci permettono di calcolare un'automobile prima che sia costruita. Queste equazioni ci permettono di predire il comportamento futuro della materia. Ecco, sono dei messaggi chiusi in scatola che noi possiamo estrarre e utilizzare secondo i nostri bisogni. Parliamo di queste scatole. Lei ha anche detto che queste particelle, cioè queste scatole così piccole, in queste particelle è scritto il codice genetico dell'universo, lo ha spiegato anche un po' adesso, che voi cercate di ricostruire. Di ricostruire la storia di questo codice Certamente. Genetico. Ecco, fino a che punto avete ricostruito questa storia? Evidentemente ogni tentativo di comprendere la natura sono tentativi che in generale sono lenti e difficili. Quindi il progresso è un progresso molto lungo e faticoso. Però negli ultimi anni, nelle ultime decine di anni, soprattutto grazie allo sviluppo di tecnologie nuove, il progresso di scoperte si è enormemente accelerato. Se ho capito bene, professore, in laboratorio, con un little bang, cioè con una piccola esplosione, voi producete della materia partendo dall'energia. Certamente. Se ho capito bene. Certamente. Ecco, cioè praticamente riproducete la creazione. Corretto. Quello che noi facciamo nel nostro laboratorio riproduciamo... Dei piccoli dei? In condizioni... No, non siamo i piccoli dei. Noi applichiamo alla lettera le regole della natura che il buon Dio ci ha dato. Sappiamo che energia e materia sono equivalenti, per esempio in un'esplosione termonucleare si trasforma materia in energia, noi facciamo esattamente l'opposto, noi prendiamo energia e la ritrasformiamo in materia, ecco, quindi ricreiamo delle cose che prima non esistevano e che noi abbiamo creato grazie a un prezzo che abbiamo dovuto pagare, e il prezzo è l'energia necessaria per produrre. Noi cerchiamo di riprodurre a nostro uso, a consumo, per la nostra comprensione, dei fenomeni che erano i fenomeni dell'universo nel suo insieme al momento della creazione dell'universo come lo intendiamo noi. 15 miliardi di anni fa c'è stata un'enorme esplosione. Una materia che ci costituisce, che siamo noi stessi, è stata generata in questo momento in una trasformazione energia-materia. Noi ripetiamo in laboratorio, in condizioni controllabili e studiabili, lo stesso tipo di fenomenologia. Lo facciamo in casa, in modo da poter capire che cosa sia successo in quel momento. Ecco, ma allora professore, questa cosa che è esplosa all'inizio, era qualcosa che c'era già, cioè era già materia, oppure la materia si è formata nel momento dell'esplosione? C'è stata una trasformazione, l'energia che si è trasformata in materia, cioè c'è stato certamente qualcosa di preesistente, noi non possiamo capire, non possiamo vedere al di là di questo tempo t uguale a zero. Noi vediamo l'universo soltanto fino al momento in cui questo si è materializzato partendo dall'energia. Noi non sappiamo cosa c'era e cosa c'è prima. Il messaggio è completamente perduto. Ecco, professore, lei crede in Dio? In un certo senso sì. Nel senso, potrei dire qual è la mia esperienza personale su questa cosa. Guardando la struttura della materia e guardandola da vicino, non si può evitare di diventare mistici, di renderci conto che esiste un ordine di cose che è veramente profondo. E che non può essere il risultato del caso, di un incidente, di una fluttuazione, ma che deve essere il risultato di un disegno preordinato. L'impressione mistica che uno ha, per esempio, guardando di notte le stelle, il cielo, le bellezze della natura, sono moltiplicate per 100, per 100.000, per milioni, quando uno si mette a guardare veramente come sono fatte queste cose all'interno. E l'interno delle cose che è ancora più meraviglioso dell'esterno. Professor Rubbia, secondo lei è possibile leggere, come fa qualcuno, la Genesi, cioè il primo libro della Bibbia, in chiave scientifica, oppure no? Io credo che lei solleva un problema che da Galileo in poi non ha trovato la sua soluzione. Ma lei è un premio Nobel. E non credo che la troverà. È un premio Nobel. Ma insomma, questo, mi riferisco alla mia osservazione sul premio Nobel. Direi che la Genesi soprattutto è un atto religioso, è un atto di fede e non va utilizzato ai suoi scopi sbagliati. Ecco, credo che la scienza fino ad ora non ha trovato disaccordi fondamentali con quelli che sono i principi fondamentali della religione. Non c'è disaccordo, a mio parere, tra scienza e religione. Mix 24. Professore, lei è considerato un tipico rappresentante della cosiddetta grande scienza, in quanto dotato di qualità sia di ricercatore che di manager. Si riconosce in questa definizione? Eh? Direi che c'è una grandissima differenza tra la ricerca, diciamo, e la grande industria. Ecco, ma cosa vuol dire allora per un ricercatore come lei essere anche definito grande manager? Guardi, mi permette di rispondere alla sua domanda in questo modo. È chiaro ed evidente che nel campo della scienza non esistono autorità. Io non posso andare a vedere un mio giovane collega e dirgli devi fare questo perché questo, te lo dico io sono il tuo boss. Non esiste struttura gerarchica all'interno del programma scientifico. La scienza è fatta da un grandissimo numero di individui che vogliono fare la loro propria fisica. Ecco, il lavoro di team è soltanto possibile come manager, accordo, come coordinatore. Credo che la parola missionario sia più adatta della parola manager. Bisogna saper convincere le persone di quello che deve essere fatto. Quindi bisogna avere un'idea e bisogna essere in grado di trasmettere questa idea, trasmettere il bacillo ad altre persone intorno a noi. Ecco, professore, lei è uno di quelli che da piccolo voleva fare già il fisico, oppure la passione è maturata poco a poco? Io ho sempre avuto un'enorme passione per la tecnica, per la tecnologia, quelle che gli americani chiamano oggi high technology, quindi qualche cosa in cui c'è questa specie di desiderio di costruire e di far funzionare delle cose. Per me l'interfaccia tra la scienza come ricerca pura e l'engineering come modo di costruire cose che servono a qualche cosa è stata sempre un'interfaccia estremamente debole, e difatti ancora oggi credo che gran parte dei risultati che noi abbiamo ottenuto sono basati soprattutto perché dal fatto che abbiamo sviluppato la tecnologia di avanguardia. Ecco, professore, io non posso separare la ricerca dalla tecnologia. Ho capito. No, ma noi siamo abituati ad associare la fisica, la matematica in generale a scuola, alle materie cosiddette scientifiche. Ecco, per diventare uno come lei è indispensabile essere portati per queste materie, oppure contano di più dei nuovi saperi? Guardi, di cui ci sono non tre elementi. Non abbiamo conoscenza. Ci sono tre elementi. Uno è la scienza di per sé, l'altro, come dice giustamente, la matematica. Senza la matematica non si fa nulla. La terza è la tecnologia. La tecnologia è entrata appieno nella scienza. E ecco, questa è una rivoluzione confrontabile alla rivoluzione dei secoli passati, quando la matematica ha cominciato ad aiutare la scienza. Ecco, professore, ma questa tecnologia saranno più i problemi che pone o quelli che risolve, secondo lei? Come dice, scusi? L'ingresso di questa tecnologia, di questa rivoluzione tecnologica, pone più problemi di quanto risolve, oppure ne risolve di più di quanti ne pone? Senti, i problemi esistono, grazie al cielo che i problemi esistono. I problemi pian pianino a poco si risolvono. No, glielo chiedo per sapere quali sono i problemi specifici di questo ingresso così rivoluzionario della tecnologia. È un'esigenza, è un desiderio da parte dello scienziato di utilizzare la tecnologia per andare più lontano. E la realizzazione da parte della tecnologia, delle persone che si dedicano alla tecnologia, che la scienza è necessaria per poter far progredire la tecnologia. Quindi è una specie di matrimonio in cui esistono interessi. Ma voglio dire, parliamo di cose concrete, professore. Questa tecnologia produrrà più posti di lavoro, più soluzioni ai problemi dell'umanità, o creerà più problemi? Certamente creerà dei problemi, ma creerà anche il modo di risolverli. Credo che noi non possiamo star fermi, noi dobbiamo avanzare. Il modo in cui fino adesso l'umanità ha sopravvissuto è inventando sempre cose nuove, in modo da superare uno stato di stagnazione che era corrispondente alla fine. Ma professor Rubbia, un ragazzo che volesse fare la sua carriera e appartenere a questa casta, cosa consiglierebbe di studiare bene e di più a scuola oggi? Credo che essere giovane oggi sia molto più difficile di quanto era essere giovane ai miei tempi. Credo che al momento attuale un giovane si trova confrontato con delle scelte e dei problemi molto più grandi dei nostri, e credo che il futuro di un giovane non è facile. È un consiglio credo concreto? Che il consiglio che studia e impara più che poi. Non c'è più il self-made man. Io credo che al momento attuale una solida cultura e una solida educazione sono delle condizioni assolutamente necessarie per una sopravvivenza, a mio parere, nel futuro. Ecco, professore, secondo lei è possibile che uomini del passato abbiano intuito qualcosa di molto importante al quale la scienza moderna è arrivata per altre vie? Certamente è così. Certamente ci sono delle idee. È un esempio. Delle idee che vengono e che vanno. Per esempio, c'è stato un momento incredibile, come diceva giustamente lei, a livello della Grecia, ai tempi degli antichi romani. La società romana in quel momento sembrava quasi una società perfetta. È stata completamente eliminata dalle invasioni barbariche, medievali, eccetera. Ed è possibile che fossero arrivate a dei punti di ricerca scientifica che adesso riscopriamo? Certamente sul piano scientifico è possibile. Certamente sul piano scientifico non erano avanzati come noi, ma sul piano umano, sul piano sociale, sul piano dei valori dell'esistenza, sì. Io sono convinto che noi stiamo ricoprendo situazioni che non erano uniche nella storia. Professore, ma secondo lei? Tra l'altro c'è un messaggio importante, bisogna assicurarsi che possano continuare, bisogna domandarsi com'è che queste cose di fatto non si sono sono finite. Perché sono finite? Perché sono finite? Ecco, ma professore, lei crede che l'uomo sia solo nell'universo? Questa è una domanda fondamentale. Guardi, questa è una domanda che credo dovrebbe aver diritto di avere un minuto di più. E il discorso è il seguente. Noi sappiamo, noi crediamo al momento attuale che la vita ci stia arrivando dallo spazio esterno. Noi pensiamo che al momento attuale la vita sia trasportata da granelli piccolissimi di polvere che stanno attraversando lo spazio vuoto e che arrivato su terra vanno sott'acqua e poi hanno iniziato la vita come la concepiamo noi. Quindi se questo è vero, è ovvio che la vita si diffonde, diciamo, su dimensioni che non sono quelle planetarie ma sono quelle cosmiche. E la domanda che noi ci poniamo è per quale motivo noi non vediamo un segnale di vita altrove. Questo è ancora più importante perché alcune delle galassie che ci circondano, non molto lontane, hanno parecchi miliardi di vita di anticipo su di noi. Quindi noi vediamo nelle galassie che ci circondano l'immagine di noi stessi proiettata tra 4-5 miliardi di anni. Allora la domanda che uno si pone è com'è che 4 miliardi di progresso scientifico e tecnologico alto non hanno permesso a questa gente di raggiungere il punto di poter cercare loro di comunicare con noi. E quindi questa domanda ha due risposte. Una domanda: noi siamo gli unici. La seconda domanda è che la nostra civilizzazione, come la intendiamo, vive un tempo che è corto rispetto ai miliardi di anni e quindi che noi arriveremo a una certa fase, ci trasformeremo in qualcos'altro, cioè che quell'altra gente sono arrivati troppo, noi siamo arrivati troppo tardi per poter comunicare con i nostri simili. Professor Rubbia, ma se lei dovesse spiegare a un bambino che cosa sono i buchi neri, cosa gli direbbe? Brevissimo. Direi che sono i più meravigliosi giocattoli con cui i fisici stanno giocando. E che quando diventerà grande e bravo, intelligente, potrà divertirsi anche lui. Professore, il suo peggior difetto qual è? Il mio peggior difetto? Non ne ho. E la sua qualità? Non ne ho la risposta. Professore, senta, ma qual è la persona più intelligente che ha incontrato nella vita? Questa è una domanda molto difficile da rispondere. Credo che credo di non poter definire il superuomo, e non ho mai incontrato Superman. Ho conosciuto alcuni grandissimi scienziati del passato, ho avuto la possibilità di brevemente vedere Fermi, di conoscere brevemente Paolo Leger. Sono persone con cui io non ho mai avuto un contatto diretto. Direi che non esiste questa specie di perla rara, superuomo. Professore, parliamo un po' delle conseguenze delle sue scoperte scientifiche. Lei ha parlato spesso di benefica ricaduta di conoscenze e di brevetti dei suoi esperimenti. Mi faccia un esempio concreto, brevissimo. Brevissimo, la risposta è molto semplice. Tutto quello che noi facciamo e viviamo nel nostro mondo è basato sull'elettricità, sull'elettromagnetismo. La televisione è basata sull'elettromagnetismo. Quante volte ogni secondo noi domandiamo al mondo del circondo un messaggio, una domanda, una messaggio elettrica o magnetica? Ora, noi abbiamo esteso, studiando queste particelle, il dominio di validità di queste equazioni, quindi abbiamo esteso la portata di equazioni che hanno la funzione assolutamente fondamentale nella vita di tutti i giorni. Ecco, ma per esempio nel settore bellico ci sono delle applicazioni delle sue ricerche? Purtroppo io al momento attuale io non vedo come si possa uccidere qualcuno con questi bosoni intermedi, però c'è sempre il però, e il però è molto chiaro che c'è sempre un modo di trasformare le cose in modo da renderle offensive, da renderle contrarie a quelli che sono i nostri principi. Ecco, parliamo da un momento di questo, professore. Chi controlla oggi il potere, il grande potere che nasce dalla scienza? Lei ne ha parlato un pochino prima, ma è di più il potere politico o la coscienza degli scienziati? La coscienza degli scienziati, a mio parere, ha poco valore. Credo che la soluzione alla scienza sia quella di una scienza aperta. Se una scienza è fatta come la facciamo noi, pubblicando i lavori, aprendo i nostri laboratori a qualunque persona, di qualunque nazione questa venga, una scienza aperta non, a mio parere, non rappresenta pericoli. Ecco, ma quello che è pericoloso nella scienza è il momento in cui questi laboratori si chiudono, ci si mettono delle barriere, ci si mettono dei poliziotti e dei cani a impedire l'accesso, è quel momento lì in cui la scienza diventa sporca. Ecco, parliamo un momento di questo caso di scienza sporca. I fisici che hanno lavorato per esempio alla scoperta della bomba atomica, se lei avesse fatto parte di quel gruppo, come avrebbe risolto il problema della questione morale? Io dovrei rispondere una cosa: noi non possiamo oggi, in un certo senso, giudicare le persone di allora senza renderci conto di quali erano le condizioni al contorno di allora. Bisogna pensare com'era la guerra. Io mi ricordo gli ultimi anni della guerra, ero ancora ragazzino, ho visto moltissimi orrori, ho visto moltissime cose, quindi in queste situazioni è chiaro ed evidente che la gente ragionava in maniera diversa. Io credo quello che si sarebbe dovuto fare, si sarebbe dovuto buttare una bomba dimostrativa prima di, in fondo anche i poliziotti devono fare un colpo in bianco prima di uccidere il malfattore, e questo colpo in bianco è quello che è mancato. Professore, un'ultima domanda: cercando e trovando che cosa allora vorrebbe vincere un altro premio Nobel? Credo che questa sia la sua prossima emissione. Mix 24, la storia. C'è stato un periodo della storia, della nostra storia sportiva e pugilistica, gli anni 50, ecco, fino al 62, in cui Loi è stato grande protagonista, su quello non si discute. È uno di quei personaggi che si vedeva subito che era un campione. Duilio ha combattuto 126 volte nell'arco dell'attività professionistica, dal 48 al 62, con una media altissima, e ha ottenuto 115 vittorie. Non esiste pugile italiano che abbia raggiunto questa quota. Direi il più grande pugile del pugilato italiano. 126 incontri, ne ha persi soltanto 3. Duilio Loi, campione del mondo dei pesi welter nel 1960, un vero e proprio mito della boxe italiana. Con le sue vittorie Duilio Loi ha scandito gli anni della rinascita e del boom. Popolare come i più famosi calciatori dell'epoca, è stato il più bravo di tutti. Il re dei nasi schiacciati, come si definiva lui stesso, è tornato ad affrontare i 3 avversari che lo avevano battuto e li ha battuti a sua volta. Quella di Duilio Loi è una vita da ring che però ha il sapore della leggenda. Trionfi e cadute, riflettori da campione, tragedie personali. E anche qualche aneddoto che sembra inventato invece è vero. Come quella sera a Milano, era il 26 novembre del 55, quando con la complicità di una Rai appena nata, Duilio Loi ha fermato un tram. Così il ricordo del giornalista Giuliano Orlando. Ehi, compa, gridava il giorno tutto spiano, cambiando sempre l'italiano, ma col suo mambo. Era la serata in cui Duilio Loi affrontava Ferrer, si presentava per il campionato europeo come uomo capace di stendere Duilio. C'era molta, molta attesa. 26 novembre 1955, Palazzo dello Sport di Milano, ore 22:30. Questo è Serafin Ferrer, sfidante. E c'era il tram che andava verso Porta Ticinese e fece una fermata prima di arrivare in deposito e si fermò proprio di fronte a un bar dove si vedeva sullo schermo le immagini dell'incontro. L'inizio del match tanto atteso da grandi folle di sportive tra il nostro campione d'Italia ed Europa, Duilio Loi, che vedete ora baciare la bandiera tricolore italiana. Il guidatore, che evidentemente era un appassionato, alla fermata disse: lui a quel punto si fermava e andava a vedere l'incontro di Duilio Loi, dopodiché gli altri facessero quello. L'eccezionalità dell'avvenimento che la TV italiana è riuscita, grazie ad un meritorio sforzo organizzativo, ad assicurare ai propri spettatori, ha richiamato un pubblico attento e teso in questo Palazzo dello Sport della Fiera di Milano. La cosa più incredibile è che il guidatore si fermò, scese, e i passeggeri, invece di creare un subbuglio, tranquillamente scesero la loro volta, andarono al bar, si godettero lo spettacolo di Duilio Loi per tutto l'incontro, tornarono sul tram quando l'incontro finì e andarono poi al deposito tranquillamente. Era la Milano della fine degli anni 50, una Milano probabilmente più umana, a misura d'uomo, con delle velocità diverse, ma era anche questo il segno della popolarità di un campione. All'appuntamento, l'urlo fragoroso ed entusiasta del pubblico ha di nuovo sottolineato un attimo di forcing del nostro Duilio. In effetti Ferrer faceva paura, però al dunque si dimostrò troppo inferiore, un Duilio Loi concentrato, perché poi Duilio Loi gestiva anche la preparazione secondo la pericolosità dell'avversario. Per Duilio Loi la stampa sportiva conia una nuova definizione, la sua, dicono, è una box scientifica. Tutta tecnica, poca potenza. Sul ring Loi è attento, preciso, con quei micidiali passettini che sbilanciano gli avversari. Non è insomma un pestone, come si usa dire in gergo, ma un pugile lucido e ragionatore. Così il ricordo del giornalista Rino Tommasi e poi dei suoi compagni atleti Bruno Visentin e Nino Benvenuti. Era un gattone del ring, era un felino, no? Poi faceva passare anche 2 minuti della ripresa senza fare assolutamente nulla di offensivo, cioè si muoveva, schivava, innervosiva l'avversario, lo irrideva anche. Una capacità tattica, più ancora che tecnica, di combattere 1 minuto anziché 3 minuti. Concentrava i suoi sforzi, le sue azioni in 1 minuto, magari in 30 secondi. 30 secondi dalla fine del round si scatenava. Una serie tambureggiante di colpi sopra, sotto, schivati, e vinceva la ripresa. Lui lavorava, perché era piccolo, lavorava al corpo a corpo. Non poteva stare a distanza, se stava a distanza con me moriva. Invece stando lì vicino faceva il suo gioco di pugilato, era bravo, vicino era bravo. Noi lo chiamiamo il bersaglio grosso, si dice il bersaglio grosso è lavorare al corpo. Naturalmente al corpo il fegato è la parte più sensibile, ecco, che un pugile offre a un avversario. Il sinistro al fegato è un colpo che può chiudere un incontro. Poi aveva un'altra qualità, che impediva all'avversario di combattere, ma non che lo facesse in maniera irregolare, bloccando le braccia. Lui semplicemente metteva il guantone aperto e bloccava il braccio dell'avversario in maniera regolare, quindi, ed era questo il modo per evitare di prendere i colpi. Un pugile imprevedibile, dalla tecnica raffinata, classe 1929. Duilio Loi è sardo di origine ma genovese di adozione. Il suo luogo di nascita però è Trieste, la città che per una curiosa coincidenza ha dato origine a tanti nostri pugili, così Nino Benvenuti e la figlia di Loi, Bonaria. Probabilmente c'è l'aria buona e poi c'è qualche cosa, perché Mitri, Loi e anch'io, insomma, penso che 3 pugili così non nascono per combinazione in un posto solo. Mio nonno, che era un marittimo, era un capitano di salamacchine, lavorava su una nave che si chiamava Duilio, e così, conoscendo questa ragazza triestina, poi si sono sposati e hanno avuto un figlio e l'hanno chiamato Duilio. Ogni lavoro che il nonno faceva navigando, i porti venivano cambiati, quindi ad un certo punto da Trieste si sono trasferiti a Genova. Mio nonno è morto saltando in aria con la nave al largo di Capobon, di fronte a Pantelleria. Quando muore suo padre, Duilio Loi ha 14 anni, è il primo colpo basso della sua vita. 2 carabinieri gli danno la brutta notizia: un siluro inglese ha affondato il piroscafo di suo padre. Uno dei 2 gli mette una mano in testa e gli dice: coraggio ragazzo, adesso sei tu il capofamiglia, comportati da uomo. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24. Oggi parliamo di un fuoriclasse italiano, il campione del mondo di pugilato Duilio Loi, nato a Trieste nel 29, che comincia giovanissimo a tirare i pugni. Queste le sue parole e quelle della figlia Bonaria Loi. Quanti anni aveva Loi quando iniziò a frequentare le palestre? Mica molti, 10-11 anni, ma non per fare del pugilato, sport di genere, in generale posso dire. Insieme con 2 amici si diceva, perché sono tutti matti quelli, tirare dei pugni alle mosche, a vuoto davanti allo specchio, non sapevamo. E a 15 anni ho fatto il mio primo incontro, il debutto a Genova. Per 2 riprese mi diedi tante, poi alla terza mi ridiede indietro quelle che gli ho dato nelle 2 riprese e alla terza quelle per vincere anche. Spesso lui marinava la scuola e andava in palestra. Quando mia nonna l'ha saputo, Chiaramente lei non voleva che lui facesse il pugilato, voleva che si diplomasse e che facesse un altro tipo di attività. E gli ha mandato i carabinieri in palestra. E poi è andata a vederlo però, perché lui era minorenne. E quando ha visto che era talmente bravo, io ricordo, questa è una frase che è sempre stata ripetuta, allora adesso se non lo farai bene fino in fondo, ricordati che ti picchio io. Duilio Loi perde prematuramente il padre e si sposa giovanissimo, gettandosi nel professionismo. L'inizio è durissimo. Lui stesso ricorda i momenti più difficili. Loi, quali sono stati a suo giudizio i match più duri della sua carriera? I duri sono stati quelli quando Loi era uno sconosciuto, quando cioè con moglie e due figli a carico, oltre al lavoro, dovevo trovare il tempo per allenarmi. Quando il giorno dopo un match dovevo andare al lavoro, anche se mi sentivo un gran bisogno di riposarmi. Nei primi anni 50 Loi combatte una decina di volte l'anno, ma lo pagano poco. Per mantenere la famiglia deve lavorare al porto come scaricatore, oppure vendere spugne nelle profumerie di Genova. Nelle sue memorie scrive: «Se qualcuno mi avesse detto che un campione d'Italia non guadagnava abbastanza da mantenere la famiglia, gli avrei dato del pazzo. Intanto però, sul ring non ha rivali. I pugili italiani li batte tutti. Dal 1951 è campione italiano dei pesi leggeri». Queste le sue parole. Dopo aver conquistato il titolo italiano, per tornare alla mia attività in Italia e all'estero, giustamente all'estero mi misi in luce e diventai sfidante per il titolo di campione d'Europa contro Joe Hansen. Andai a farlo a Copenaghen e purtroppo persi. Johansen è un osso duro e per la prima volta Loi perde. Scriverà in seguito: ero troppo giovane di età e di mestiere per sopportare il peso della corona europea. Il vero Loi è maturato dopo Copenaghen. Ma Duilio Loi incassa la sconfitta e invita il rivale a Milano. Inizia così una sua tradizione tipica: vincere le rivincite. È il 6 febbraio 1954 e stavolta Johansen non ce la fa. Duilio Loi è campione europeo dei pesi leggeri. Il 6 febbraio del 54 Duilio Loi vince il titolo europeo dei pesi welter. A questo punto, insieme ad altri pugili italiani, parte per una tournée oltreoceano per tentare la fortuna in America. Qui infatti gli ingaggi, le borse, come si dice, sono abbastanza alti e permettono di mandare qualche soldo a casa. Ma per Duilio Loi il sogno americano sarà un sogno breve e travagliato. Potrebbe aspirare anche il titolo mondiale, ma questo significherebbe accettare un gioco non sempre pulito. E lui non ci sta. Duilio raggiunge gli Stati Uniti e a Miami Beach gli mettono di fronte Glenn Flangan, uno di quei pugili che gli americani definiscono solitamente becco a gas, fatto apposta per far sfigurare tutti. Gli americani sperano di umiliare quell'italiano orgoglioso che non ha accettato i loro compromessi. Ma Duilio non si lascia umiliare. L'incontro di Miami segna una nuova tappa vittoriosa della sua carriera. E così Loi risponde a Walter Chiari nel 1955. Rifiutano veramente di incontrarlo. Perché rifiutano di incontrarti? Non è questione proprio di sport, è questione anche di organizzazione, questione finanziaria. Di interessi, cioè interessi. Loro hanno in mano. Adesso la questione finanziaria è stata in parte risolta. Adesso speriamo che tutto si concluda bene. Perché c'è una cosa che voi non sapete, ma che stupirà anche i profani. Voi sapete quanto duro sia lo sport della box e quanto veramente guadagnati e sudati siano quei danari che si guadagnano boxando. Ebbene, Loi, pur di tentare di entrare in possesso di un titolo che darebbe prestigio all'Italia dopo anni ed anni ed anni, perché l'ultimo campione del mondo è stato Carnera, ha rifiutato il denaro. Si è offerto in un primo tempo di andare solamente con le spese pagate e non avere nemmeno. E poi oggi, cosa di questi giorni, ha rifiutato anche le spese. Lui andrebbe a sue spese in America solamente per campionato. Solamente del mondo. Per il campionato del mondo. Ma loro rifiutano perché hanno una FIFA maledetta, dillo, hanno una FIFA maledetta, hanno una FIFA tremenda. Nel frattempo il suo fisico è cambiato. Loi è diventato più grosso, è passato nella categoria dei welter junior. Ormai è chiaro che per arrivare all'incontro per il mondiale non è sufficiente tirare pugni. Occorre lavorare dietro le quinte. E finalmente Loi incontra l'uomo giusto. Steve Klaus. Insieme annunciano che il match per il titolo mondiale sarà San Francisco contro il portoricano Carlos Ortiz. Così Bonaria Loi, figlia di Duilio, ricorda il manager e allenatore di Duilio Loi. Un ebreo ungherese, poi diventato americano. Durante la guerra era stato nascosto, vestito da pope, in Vaticano. Oltre ad essere un ottimo manager, era anche una persona di grande public relation con quel mondo americano e sapeva benissimo come destreggiarsi per poter arrivare alla meta. Loi ha dovuto aspettare questo momento per 5 anni, ma adesso ha 31 anni e non è più giovanissimo, e non tutto va per il verso giusto. La Rai del 1960 non ha i mezzi per trasmettere una diretta televisiva e manda solo 2 inviati. Gli italiani ascoltano l'incontro alla radio. Loi perde. È la sua seconda sconfitta. Ma questa volta non la manda giù. Non pensa di meritarla. Anche i pochi che hanno visto l'incontro continuano a non essere d'accordo tra loro. Questa è la testimonianza di Giuliano Orlando. Quando combatté a San Francisco, Duilio Loi si dovette far fare le infiltrazioni perché aveva il polso della mano sinistra infortunato. Anche questo, insomma, bisognerebbe saperlo. Tra l'altro, tenendo conto che ha perso a San Francisco con un verdetto, con una split decision. Tra l'altro l'arbitro non contò Ortiz, che era andato al tappeto, è vero che era finito giù con la faccia oltre le corde, non lo contò, e ci fu un verdetto di 2-1 a San Francisco, il che è tutto il dire. Misi 3 volte per terra, anche 3 volte per terra Ortiz, penso che avevo vinto meglio che in Italia. Ho avuto un applauso, una stampa infavorevole. Per rimediare alla sconfitta, Steve Klaus, che Loi chiama la volpe, deve di nuovo dimostrare la sua proverbiale capacità diplomatica. Così la testimonianza del giornalista sportivo Giuliano Orlando. L'abilità di Klaus fu quella di dire che sai, ormai, guarda Duilio, dopo quel match con te, intanto c'ha una mano in disordine che non guarirà più. E poi anche un po' stufo, stanco, sai, gli vogliono far fare un incontro di chiusura e poi probabilmente lascia perdere. Fu talmente convincente che una buona borsa però portò Carlo Sorti a Milano. Quando il portoricano arriva a Milano, la stampa italiana gli dà un grande risalto. È un vero evento mondano. E per l'occasione Loi si è preparato come mai aveva fatto prima. 2 mesi e mezzo dopo la sconfitta di San Francisco, a San Siro va in scena la serata che farà passare Loi alla storia. È il 1° settembre 1960. Quello stesso giorno la nazionale di Trapattoni e Rivera vince 3-1 con il Brasile. L'Italia è in piena fibrillazione sportiva. A Loi la folla urla: dacci il titolo. Loi ha riempito lo stadio di San Siro il 1° settembre del 1960 in piene Olimpiadi di Roma. Non c'è stato nessun altro pugile. Ecco come Gianni Minà racconta questo celebre match. Ortiz attacca per primo con un gancio destro al corpo. Ancora Ortiz tocca con un gancio destro al viso che Loi non riesce ad evitare. Il campione piazza ancora larghi ganci sinistri al capo mentre Loi è presso le corde. È il 6° round. L'incontro prosegue accanito, fatto soprattutto di veloci scambi con esito alterno. L'arbitro André Sparaguerra dà il segnale di avvio dell'ultimo round. Gli avversari sono entrambi un po' stanchi e questo rilassamento favorisce Loi, che appare indiscutibilmente in vantaggio. Soltanto un improbabilissimo colpo da KO può togliere a Loi la corona praticamente già sua. Tuttavia la battaglia sul ring torna ad essere aspra. Loi, che sente vicino alla realizzazione del suo grande sogno, attacca, attacca, attacca. E quando riesce ad arrivare alla distanza giusta per il corpo a corpo, martella i fianchi di Ortiz senza tregua. Il match è finito. Gli applausi della folla entusiasta anticipano il verdetto. Loi ha vinto. E quello fu sicuramente il capolavoro di Duilio Loi. Loi porta la cintura di campione alla Madonna di Loreto. e dichiara più volte che l'artefice di questo capolavoro è Dario Bensi, l'uomo che lo segue in palestra, quello che è con lui dall'inizio, l'uomo che lui chiama maestro. Così il ricordo del campione Benvenuti e della figlia di Loi. Era un allenatore di Genova che lo ha creato e quello che lo ha preso in palestra ai primi pugni e lo ha portato fino a diventare un campioncino. Era per noi bambini molto singolare questo signore. Gli legava le gambe col filo, con lo spago, per evitare che lui nella posa, nell'assetto, li allargasse. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Oggi raccontiamo la storia di un campione di pugilato, Duilio Loi, che dopo la vittoria contro Ortiz è un eroe nazionale. Riceve medaglie, diplomi, viene nominato cavaliere. Tutte le trasmissioni televisive lo vogliono come ospite. Ed è addirittura il protagonista di un fotoromanzo. I giornali lo definiscono il re di Milano. È la Milano dei primi anni 60, gli anni in cui il pugilato è uno sport molto amato e i pugili sono delle celebrità, come raccontano Rino Tommasi e la figlia di Loi. Il parterre di una grande riunione di pugilato, parlo degli anni migliori della nostra box, quelli caratterizzati da Loi a Milano, ma anche quelli poi caratterizzati a Roma, da Rinaldi, da Benvenuti, eccetera, eccetera. Era una sfilata di divi, di attori, attrici, cantanti, poeti, scrittori, c'era tutto il bel mondo. Le donne andavano a vedere la box, amavano la box. Ci siamo accorti che era un mondano, semplicemente perché la mamma era gelosa, solo per questo. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Duilio Loi si gode la gloria e il successo, ma presto torna in palestra ad allenarsi. Considera Carlo Ortiz uno degli avversari più forti della sua carriera. Per uno con il suo temperamento orgoglioso è molto importante stabilire con una bella chi sia veramente il migliore. L'incontro lo racconta ancora Gianni Minà. 10 maggio 1961, terzo match, ancora a Milano. È il sesto round. Il portoricano era ritornato in Italia deciso a conquistarsi il titolo, ma Loi, nel corso di una battaglia estenuante, confermerà la sua superiorità, che è evidente in questa ripresa. Al rallenti, l'episodio fondamentale di questo assalto. Preparato dal diretto sinistro, Loi, con uno stupendo destro d'incontro, mette a terra Ortiz. Non si rialza subito e quando lo fa è costretto a subire un destro uguale a quello che lo aveva atterrato. Poi, sotto l'impeto dell'italiano che gli piazza precisi uppercuts al mento, non può fare altro che aggrapparsi per evitare il peggio. L'azione di Loi è tremenda, i suoi montanti cercano ferocemente il KO che solo il grande mestiere del portoricano riesce ad evitare. Loi, dal canto suo, non cessa di attaccare furiosamente nella speranza di cogliere il successo prima del limite. Quindicesimo round. Ortiz si è ripreso molto bene e limita con la consueta freddezza l'azione dell'italiano. Il portoricano ha un bel ritorno e si incrociano altri furiosi colpi, come se il match fosse iniziato in questo momento. Nel corso di uno scambio Ortiz mette a segno una serie al viso, poi un destro che mette l'italiano al tappeto. Loi ha sentito il colpo ma si rialza immediatamente, tanto che l'arbitro non effettua alcun conteggio. Ortiz cerca di sfruttare il momento, ma il gong glielo impedisce. Il terzo incontro ha dato ancora ragione a Loi. La sua superiorità nei confronti di Carlos Ortiz, malgrado la stanchezza finale, è stata ribadita. La notorietà del pugilato è ai massimi livelli e l'Italia moderna di quegli anni inventa la sponsorizzazione sportiva. anche se non si chiama ancora così. Sentiamo ancora il giornalista sportivo Giuliano Orlando. I'll never forget the moment. Borghi, che era il re dei frigoriferi, aveva creato una specie di centro dove i pugili andavano a fare tutta la preparazione. Praticamente era diventata la cittadella del pugilato, come Erio, vicino a Varese. Era l'uomo che voleva tirarci fuori il guadagno, lui era un appassionato, le faceva enormemente piacere di godere dell'amicizia di questi grandi campioni. Per conservare il titolo mondiale adesso Loi deve incontrare un nuovo sfidante. Dall'America arriva un altro osso duro, si chiama Carl Perkins, è un nero di Chicago, velocissimo, con una buona tecnica e ha 8 anni meno di lui. L'incontro si svolge di nuovo a Milano il 21 ottobre del 61. Così il ricordo del figlio di Giovanni Borghi, Guido. Perkins era certamente un campione in divenire, era più giovane di Duilio Loi, veniva da una scuola americana che aveva già portato in auge grandissimi campioni. Non fu eccezionale, devo dire che i giudici forse hanno sentito un po' l'influenza del pubblico di casa, perché il match era veramente al limite e mantenne in ogni caso il campionato del mondo. Con la solita brusca sincerità, Loi non nega che quell'incontro non era proprio un pareggio, ma come al solito il suo pensiero va immediatamente alla rivincita. È il 14 settembre 1962. Loi non sta bene. Ha preso degli antibiotici. Prova a chiedere un rinvio del match, ma ormai è troppo tardi. E questa volta la sua sconfitta è netta. La differenza di età tra i due pugili si è fatta sentire. Così Loi risponde a Sergio Zavoli. Ho sbagliato tattica. Pensavo che quello che ho fatto poteva bastare. In dato momento che ho visto che non si poteva fare più altro, cercando di immaginare che dovevo fatto almeno un pareggio. Se mi accorgevo prima che ero così in ritardo, avrei dato ancora più a fondo, sarei partito prima. Purtroppo, quando me ne sono accorto, era troppo tardi. Duilio Loi è un uomo orgoglioso. Per lui smettere così è impossibile. In poco tempo si rimangia i propositi di ritiro. Vuole la bella. Rivuole Perkins. A poche ore dall'incontro con Perkins, Loi si trova in un ottimo stato di forma. E Perkins è sicurissimo di batterla. E che cosa dice di questa affermazione? Beh, beato lui che è tanto sicuro. Poi ne aggiunta anche un'altra, dice che io meglio che non cambi tattica dalle altre volte, così, perché se la cambio vado a dormire prima del metà combattimento. Sì, ha parlato del sesto round. Sì, sesto, settimo round. Va bene. È beato lui, pazienza. Perkins come Ortiz dichiarato che in 7 riprese o il 7° riprese metterà fuori combattimento Duilio Loi. Per conto mio quell'uomo, quello che mette fuori combattimento Duilio, deve ancora nascere. Stiano bene attento questi spaconi che vengono qua con queste dichiarazioni, perché Duilio Loi è preparato bene, molto bene. È il 14 settembre 1962. Per Duilio Loi è il match della vita, quello che dà il segno a tutta una carriera. Loi si è preparato allo spasimo, vuole riprendersi il titolo. È una battaglia spietata, tecnicamente non bella, ma piena di suspense. È l'ultimo minuto della carriera di Loi. Perkins cerca il colpo del KO. Loi replica con energia selvaggia. Quando occorre fa ricorso al suo mestieraccio, stringe i denti. Chiede alla sua classe quello che le energie fisiche non gli danno. Il pubblico capisce e scandisce a gran voce il suo nome. Loi ha strappato con il cuore e con i denti la sua ultima vittoria. È di nuovo campione del mondo dei welter junior. Il 23 gennaio 1963 Duilio Loi annuncia il suo ritiro, compiendo il più grande atto di coraggio che si può chiedere ad un grande protagonista dello sport. Non mi ritiro senza commozione, perché credo che si le prospettive di altri guadagni non rientrano nei miei calcoli. Ritengo di avere di dovere al pubblico e mi ha seguito e incoraggiato. Questa mia decisione. Duilio Loi ha voluto chiudere in bellezza, ha rinunciato a $100,000 per due incontri già fissati in Giappone. Lo ha fatto per tenersi il ricordo di una vittoria, ma anche per dimostrare che tipo di uomo è. Adesso per lui ci sono però le insidie della normalità, l'ambizione di una vita tranquilla e la tentazione di rimanere comunque sotto i riflettori. Duilio Loi, insomma, inizia il suo match con la vita, stavolta fuori dal ring. Ora sono finalmente tranquilla che mio marito abbia smesso di fare il pugilato. La nostra vita di ansie e di preoccupazioni sarà finalmente finita. Tornato ad essere un cittadino come tanti altri, Duilio dedica ora le sue assidue cure al ristorante che gestisce personalmente, aiutato dalla madre. Anche nella nuova professione, l'ex campione ha già acquisito uno stile suo personalissimo. Così il ricordo della figlia e le sue stesse parole intervistato dopo il ritiro. Era un ristorante che andava molto bene, dove mi dicono si mangiava molto bene, ma era anche molto legato alla gente che voleva andare a vedere il campione. Senta Loi, è stato duro appendere i guantoni al chiodo, come si suol dire. Quando si ha una famiglia è doveroso fare una scelta. Io la mia scelta l'ho fatta. Ha un buon ricordo dell'ambiente pugilistico in generale? No, mi dispiace dirlo, proprio no. Troppi interessi, troppa invidia. E non è come sul ring, che è una battaglia a viso aperto. È una battaglia troppo nascosta. Troppi intralazzi. Del bel periodo in cui lei era Duilio per tutti, in cui aveva una quantità enorme di amici o di falsi amici, che cosa le è rimasto? Beh, signori, mi dispiace dirlo, a parte che due o tre amici da ragazzi proprio, nebbia, spariti. Poi dopo anche tutte queste cose qui è venuta la tragedia e non ne voglio neanche parlare. Mix 24, la storia. Rieccoci, stiamo raccontando la storia di Duilio Loi dopo aver vinto il titolo mondiale nel 63, l'annuncio del ritiro e l'inizio di una nuova vita. Ma non è finita. Questa volta una tragedia familiare lo riporta sulle pagine di tutti i giornali. Milano, 12 aprile 1973. Manifestazione indetta dal Movimento Sociale Italiano. Vi si innestano gruppi di avanguardia nazionale, squadre di boia chimolla provenienti da Reggio Calabria, estremisti reduci da un'altra rivolta di piazza di segno neofascista, organizzata all'Aquila. La situazione si fa subito tesa. Aquila, Reggio, Milano sarà peggio, gridano i manifestanti. Lo scontro più duro con la polizia avviene in via Bellotti. Vengono lanciate bottiglie Molotov, poi da due manifestanti, Maurizio Morelli e Vittorio Loi, figlio di Duilio, parte una bomba a mano che colpisce in pieno petto l'agente Antonio Marino, uccidendolo. La sera stessa, poco dopo le 23, il dirigente del Fronte della Gioventù telefona al capo dell'ufficio politico, Alfonso Noce, e gli indica il nome dei due attentatori. Loi e Morelli vengono rinviati a giudizio. Ricorda così Giuliano Orlando. Lì si vide proprio il padre, il vero padre. Fece dei grandissimi sacrifici, non elemosinò nulla a nessuno, non chiese aiuti da nessuna parte, se la sbrigò da solo, anche se il conto alla fine fu salato. Nel 1975 verranno condannati rispettivamente a 23 e 20 anni di carcere. Queste le parole di Vittorio Loi. Era la nostra esuberanza, il nostro volontariato, si può dire, la nostra stupidaggine al momento, sia di destra che di sinistra, fosse guidata sempre. Chi non stava qui sotto il giogo veniva allontanato e poi richiamato nei momenti in cui si richiedeva i disordini più gravi. Così dunque la leggenda di Duilio Loi prende i colori della tragedia. Come tanti altri padri, anche lui viene travolto dalla follia degli anni 70 e dalla violenza politica. Ma il dramma familiare è solo il preludio di un crepuscolo inevitabile. Nel 2000 Duilio Loi torna sulle pagine dei giornali, ma questa volta è un ritorno malinconico. Il vecchio boxer non se la passa affatto bene. È malato di Alzheimer ed è praticamente senza pensione. Ci fu una specie di movimento popolare scattato con l'iniziativa della Gazzetta dello Sport per sensibilizzare i poteri alti che questo campione meritava di ottenere la legge Bacchelli. La Gazzetta dello Sport promuove un'iniziativa per sensibilizzare i poteri alti ad estendere la legge Bacchelli a questo campione. Ora c'è più disponibilità. Il Senato ha cominciato a discutere di un fondo economico degli ex atleti che si trovano in difficoltà. Una decisione che deve essere presa entro la fine di marzo. Tra questi c'è Duilio Loi. Così il figlio di Giovanni Borghi, Guido. Il CONI e la federazione hanno capito che devono fare qualche cosa per questi atleti. Quindi credo che sia un altro risultato raggiunto nel nome di Loi e che serve ormai a tutti gli sportivi. Questo credo sia la parte più bella, perché Loi nello sport ha dato anche questo. Alla fine Loi ottiene il vitalizio concesso dal governo. E c'è anche un'altra buona notizia. Il 4 gennaio 2005 entra nella Hall of Fame, il pantheon della box internazionale. Ma intanto bisogna fare fronte all'ultimo colpo basso. Dopo che la mamma è mancata, aveva dei momenti in cui davvero non riusciva a... perdeva il filo. Come se la luce si spegnesse per un attimo. Alla fine il responso è stato brutto. Lui aveva l'Alzheimer. La vita da ring di Duilio Loi finisce il 20 gennaio del 2008. A 78 anni Loi si arrende a una malattia che mette fuori uso il cervello. Un destino beffardo per un pugile che è stato il campione della boxe intelligente. Ma Duilio Loi non era il tipo da piangersi addosso. A lui piacerebbe essere ricordato come un tipo tosto. Una miscela di sincerità, aggressività, simpatia che nei suoi anni d'oro ha incantato le folle quando era il ballerino del ring, quando per tutti era solo Duilio. Così si definiva. Si dice che lei fosse particolarmente cattivo in determinati incontri. No, io non ho mai messo cattiveria nei miei combattimenti. Semmai, molto impegno agonistico. Questo sì. Nino, benvenuti, anche lei è stato campione del mondo. Qual è stato il momento più bello per lei? Sono stato campione del mondo, è stato un momento bellissimo quello, ma uno ancora più bello per me è stato quello della vittoria olimpica, quella delle Olimpiadi del 1960 dove vinsi la medaglia d'oro. Ecco, quello è il momento che ricordo più con passione, proprio. Perché? Nel profondo del cuore. Perché ero un dilettante. Erano le prime armi, diciamo le prime armi ci fa per dire, ma è una vittoria dalla quale non diventi mai ex. Oggi si dice ex campione del mondo, ma non si potrà mai dire ex campione olimpico, perché sono un olimpionico e quindi campione per sempre. Il pugilato che prima eccitava le folle, ora non più, è vero? Un po' meno. Non lo so perché, o meglio, la gente è meno attratta da questo sport di quanto lo fosse in passato, mi dispiace. Ma la TV, che è sempre stata un moltiplicatore di ascolti, anche per il pugilato, poi è stata quella che lo ha ucciso? Ma non direi che la televisione c'era e c'è ancora, allo stesso modo di prima, ma è che ci sono altri interessi che attraggono le folle, i giovani, i quali giovani sono attratti di più da sport più facili, più semplici, più leggeri, meno difficili, di minor sacrificio, ecco. Ma il doping, che è una piaga dello sport, è mai esistito nel pugilato? Boh, forse sarà anche esistito, ma non così acclaratamente come lo è negli altri sport. È uno sport dove la droga non attecchisce, perché sul ring bisogna essere coscienti mentalmente e percepire ogni istante, ogni momento della lotta, perché sapere quando puoi anche poterti ritirare, altrimenti andando avanti sotto gli effetti della droga rischieresti anche di morire. C'è un futuro per il pugilato in Italia? Sì, diciamo che c'è e io lo credo, perché è uno sport, il pugilato, che è sempre stato amato, vissuto dalle folle sportive, e lo sarà ancora. Lei vede qualcuno nel panorama di oggi? Boh, fare nomi, no, non ne ho di nomi sotto mano. Una volta c'era magari qualcuno, quando c'era, ecco, Tiberio Vitri, Duilio Loi, Sandro Mazzinghi. Adesso tirar fuori un nome in assoluto diventa difficile. Ecco, mi dica la verità, ma qual è stato il più grande di tutti i tempi? Diciamo che Muhammad Ali, nel pugilato mondiale, senza dubbio. Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.